Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Salve a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Siamo sempre io, Francesca, il mio fedele compare. Grazie cara, sono Pietro, ciao a tutti. E poi è tornato tra noi, grazie al cielo, il tecnico che ci ha salvato. Infatti l'ultima puntata abbiamo dovuto farla senza di lui e abbiamo un po' panicato, ce l'abbiamo molto fatta panicato, comunque. Molto panicato, aggiungerei. E quindi bentornato Stefano. Ciao. Bellissimo. Ascolta, oggi il nostro tema è molto caldo e molto oggi attuale. Oggi è un tema caldo, di cui probabilmente tutti hanno già sentito. Certo, certo. Però, però noi vogliamo fare un sunto. Una rinfrescata. Infatti abbiamo deciso di dividere questa puntata in due, no? Una parte che si chiamerà Who is Marcello? Che è 100. E la seconda che si chiamerà Where is Marcello? Stiamo naturalmente parlando di Marcello Dell'Utri. Tutti voi avrete letto in questi giorni i giornali in cui, insomma, è stato in prossimità della sentenza della Corte di Cassazione, è scappato in Libano. Lui dice per curarsi, Berlusconi dice per mediare con Putin, insomma ognuno ha la sua versione. Resta il fatto che è stato dichiarato latitante e poi è stato arrestato in un hotel lussuosissimo che aveva tutto tranne che l'aspetto di una hotel casa di cura. Fenicia, dove avevano deciso di mandarlo in realtà a novembre il fratellino e Mancuso. Ma è davvero una storia straordinaria. Dell'Utri è un uomo dalle sette vite, si potrebbe dire che nella sua vita non si è fatto mancare nulla, no. E ricordiamo un po'. Indagato in qualsiasi cosa. Sì, è riuscito a incredibile. Sono negli ultimi vent'anni. È riuscito a essere in mezzo a qualsiasi faccenda, dalla pitrea. Ma andiamo con ordine, innanzitutto. Partiamo dalla nascita di questo personaggio che ha segnato poi la storia d'Italia. Dell'Utri è nato a Palermo l'11 settembre, data. E ci chiediamo se non è un esatto, caso. Data nefasta del 41. E la sua carriera in realtà parte, si potrebbe dire, in modo inconsueto. Cioè, sì. Non è. Perché infatti lui era dirigente sportivo di calcio di una società che era gestita dall'Opus Dei a Roma. Subito però i collegamenti. Ragazzo precoce. Esattamente. Poi è diventato politico per legittima difesa, come affermerà. Comunque sì, può definirsi esattamente la sua professione politico e dirigente d'azienda. Esattamente, sì. Ma poi ha la fortuna di conoscere il notissimo Silvio Berlusconi, insomma, di cui diventa segretario personale, poi inizia a lavorare all'Edil Nord e negli anni 80 fonda Publitalia insieme a Silvio, e Publitalia che tra l'altro sarà coinvolta in un macello di inchieste anche là per frode fiscale e quant'altro, senza contare che poi fa parte anche di Fininvest proprio per non farsi mancare niente. Ma soprattutto ricordiamo che quando inizia la sua carriera da dirigente sportivo incominciano anche le frequentazioni, diciamo, non proprio così idilliache. Infatti lui stesso ha ammesso di aver conosciuto Mangano e Cinà, che sono due personaggi mafiosi appunto affiliati a Cosa Nostra. E inoltre ci sono appunto gli accertamenti e le indagini hanno portato alla luce delle riunioncine molto carine fra appunto Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontade e Terisi. E proprio per dove si parlava sia di Mangano e dell'assunzione di Mangano a serie, cioè una sorta di bodyguard di Berlusconi, sia appunto per un rapporto di Daudes tra Cosa Nostra e appunto Silvio Berlusconi, un patto che viene siglato proprio con l'intermediazione di Dell'Utri, che fa da trade union di queste due realtà. Sì, ricordiamo che Vittorio Mangano era stato assunto ad Arcore come stagliere della villa del Cavaliere. Ed è un eroe, ci teniamo. Sì, sì, è stato in più dichiarazioni Dell'Utri ci ha tenuto a dire che Mangano, anche Berlusconi per la verità, Berlusconi. Nessuno fa mancare i suoi elogi. Ma Berlusconi tra l'altro, cioè nel senso, poi comunque Dell'Utri è un suo amico, ripetuto più volte. Certo, è una certo, persona certo. Piena di interesse, estremamente intelligente. E appunto la cosa straordinaria è che la storia secondo me è un po' buia, nel senso che in quegli anni naturalmente stava avvenendo l'ascesa imprenditoriale di Berlusconi e in quegli anni si fanno sentire anche le pressioni di Cosa Nostra, che appunto vedono di buon occhio l'attività imprenditoriale di Berlusconi e cercano in qualche modo di estorcere anche del denaro da Berlusconi. E il mediatore tra queste due, tra Cosa Nostra e Berlusconi, è comprovato insomma che è stato Marcello Dell'Utri. E questo periodo va dal 74 al 92. Esattamente. E nel 94? Nel 93 viene fondata Forza Italia. Sì, a quel punto Dell'Utri è uno di quelli che spinge per la fondazione di Forza Italia, perché in quegli anni comincia Tangentopoli, ci sono tutte le indagini. Allora Dell'Utri consiglia a Berlusconi di fondare questo partito per entrare in politica e salvarsi le chiappette. Elegantemente. E lo stesso Dell'Utri poi diventa deputato di Forza Italia. Nel 96 diventa deputato, lo rimarrà fino al 2001. E secondo me è interessantissima la frase che dice Marcellone quando, che in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano nel 2010, in cui, cioè, cito testualmente, lui dice: io sono politico per legittima difesa, a me della politica non me ne frega niente, mi difendo con la politica, sono costretto, mi candidai nel 96 per proteggermi, infatti subito dopo mi arriva un mandato d'arresto, mi difendo anche fuori dal Parlamento, ma non sono mica cretino, quelli mi arrestano. Cioè, straordinario, ragazzi, è fantastico, ci fa proprio essere orgogliosi dei nostri politici. Poi, non volendo farci mancare niente, è stato eletto anche parlamentare europeo, cioè con Forza Italia, quindi noi abbiamo nel Parlamento europeo a rappresentarci Dell'Utri. E poi senatore ancora dal 2001 al 2008, prima di Forza Italia, poi del PDL, e poi nel 2013 in realtà non è stato più candidato, ma insomma c'è un limite a tutto, diciamo così. Anche perché in tutto ciò lui ha accumulato come processi giudiziari. Dai, faccio un po' un elenco di tutti, allora, i suoi processi, che ci fa un bel riassunto. Cioè, è un sunto molto veloce, in realtà. È stato due volte assolto in Cassazione per estorsione e calunnia aggravata, per cui se l'è cavata grazie alla politica. C'è stato un patteggiamento per fatture false e frode fiscale, un processo di appello con condanna per concorso esterno che appunto ha portato alla condanna di 7 anni. Ci sarebbero gli olè ogni condanna, però. Un processo in appello per abusivismo, condanna a 8 mesi, 2 rinvii a giudizio per P3 e trattativa stato mafia, così, giusto per essere leggeri. C'è dappertutto, è ubiquitario al massimo. Per cui, insomma, questo è quello che abbiamo trovato. Ma tra l'altro c'è anche un'indagine su un'estorsione ai danni di Berlusconi, quella appunto della trattativa, quindi amici, però, non so, a me i miei amici non mi hanno mai estorto denaro. Comunque, quello è quello che credi tu, Pietro. Lo scopriremo poi solo vivendo. Va bene, allora adesso vi lasciamo con un pezzo che secondo me fa bene da trade union tra la prima e la seconda parte, che è dei Beirut. E si chiama Postcards from Italy. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. Close. Allora, torniamo in onda e appunto adesso parliamo degli ultimi fatti avvenuti. Dell'Utri è stato appunto arrestato a Beirut, dove si trovava latitante, dove appunto era soggiornato in questo albergo che tu non mi citavi prima, Francesca, e in cui si trovava dal 3 aprile. Aveva preso un volo per Parigi e Parigi-Beirut e il suo avvocato poi aveva lasciato una nota al suo avvocato dicendo che era andato là per curarsi, però è quantomeno una tesi azzardata. Infatti, perché proprio in questi giorni c'era la sentenza di Cassazione, che poi in realtà è stata rinviata al 9 maggio perché anche gli avvocati di Dell'Utri sono malati, c'è un'epidemia, tutti cagionevoli di salute, tutti cagionevoli, e quindi per legittimo impedimento è stata rinviata al 9 maggio. Appunto era attesa la sentenza di Cassazione che avrebbe dovuto confermare o annullare, non lo sappiamo ancora, la condanna in appello appunto per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra l'altro mi fa piacere anche sottolineare un attimo che è uscito un editoriale di Feltri sul giornale che si chiama Concorso esterno in persecuzione, sì, in cui Feltri farà brividire da buon amico di Dell'Utri lo sostiene che il concorso esterno in associazione mafiosa sia un reato farsa, che non si è mai visto che uno sia condannato perché aiuta una, insomma, con delle argomentazioni cioè, abbastanza... è astratto il fatto che dei politici siano interessati agli affari della mafia e collaborino con la mafia. Non so, forse Feltri non vive in Italia, non lo so, sfugge qualcosa, perché mi chiedo allora perché siano morte così tante persone, dovrebbe forse chiedere anche un po' di scuse. Non lo so, davvero è assurdo che uno dei direttori, uno dei principali giornali dica quelle cose. E ma com'è che ci è arrivato Dell'Utri in Libano, voglio dire, perché... Allora, si risale, come dicevo all'inizio, a un incontro che avviene fra il fratellino di Dell'Utri e Mancuso in questo folcloristico ristorante di Roma, Assunta Madre, che sembra abbastanza conosciuto sia da politici che da calciatori che da i mafiosi di turno, che appunto ciclicamente si rinnovano a seconda di quando vengono arrestati, quando vengono uccisi da altri mafiosi, eccetera. Però insomma è un po' il summit di tutte queste persone, per cui tu puoi andare all'Assunta Madre e vedere queste bellissime tavolate di politici misti a mafiosi. E proprio in questo luogo ameno si riuniva appunto Alberto Dell'Utri e Mancuso per decidere la strategia nel caso in cui la sentenza fosse stata una sentenza di condanna, perché appunto bisognava trovare la via di fuga per Dell'Utri. Alberto Dell'Utri dice che Dell'Utri è in possesso di un passaporto diplomatico della Guinea-Bissau. Tuttavia in realtà è arrivato a Beirut con il suo passaporto italiano e addirittura si è anche registrato nell'hotel dove l'hanno trovato con il proprio nome, così in modo estremamente appunto alla luce del sole, si può dire. Primo atto alla luce del sole, esatto, della sua vita forse. E dove appunto viene fermato, quindi probabilmente ci si è chiesti anche se si aspettasse di essere fermato o pensasse effettivamente, probabilmente la meta finale non era Beirut ma altri luoghi. Rimane il fatto che appunto è stato trovato anche perché ha usato la carta di credito, quindi insomma ha commesso una serie di errori per cui è stato trovato, è stato arrestato e adesso si stanno attivando in Libano per il processo di estradizione che speriamo giunga a conclusione. Rimane il fatto che Marcello Dell'Utri ha influenzato talmente tanto la vita politica italiana tra massoneria, servizi segreti deviati, Cosa Nostra e politica, ed è incredibile pensare come un personaggio del genere sia davvero riuscito a tessere le trame del destino del nostro paese. E quindi c'è da chiedersi anche dove eravamo noi in tutto questo periodo, perché e soprattutto com'è possibile che una persona così invischiata nel malaffare fosse inserita nella compagine politica italiana addirittura di un partito che ha governato per tantissimi anni e come uno dei più cari amici del premier italiano. È davvero una storia incredibile. Va bene, allora noi chiudiamo la parentesi Dell'Utri sperando che l'inchiesta prosegua nel miglior dei modi, si raggiunga anche una sentenza definitiva. Tra l'altro appunto lui, uomo di cultura, aveva trovato anche i diari di Mussolini, ma ne parleremo, sì, faremo una puntata apposta. Va bene, allora vi lasciamo con Pigro di Ivan Graziani, poi Buffie. sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come Baba di Luma, che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come Baba di Luma, che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. Eccoci alla rubrica Buffier. Sì. Oggi abbiamo deciso di dedicare il Buffier a una, a un evento bolognese. A un evento bolognese che sta prendendo molto i cittadini e non solo, sono venuti a corsi tantissimi turisti. Addirittura, notizia dell'altro giorno, ci sono, ha raggiunto la quota 200.000 spettatori la mostra. Stiamo parlando della ragazza con l'orecchino di perla, il famosissimo quadro di Vermeer, che è in esposizione a Palazzo Fava. Tra l'altro Palazzo Fava è bellissimo, infatti consiglio a tutti di andare a vedere soprattutto il palazzo più che la mostra, perché insomma noi abbiamo... A me esce dagli occhi, esatto, sinceramente. Purtroppo non riusciamo ad apprezzare questa mostra fino in fondo, così come lo stanno facendo la stampa locale, nazionale, e come lo stanno facendo, come lo sta facendo l'opinione pubblica. Sì. E fra l'altro, in realtà c'è da dire che moltissimi storici dell'arte si sono anche pronunciati contro invece appunto alla gestione di questa mostra e a come questa è stata appunto pubblicizzata, come questa diventi poi baluardo di un certo modo di fare politica nei beni culturali, che è appunto estremamente commerciale, mercificatorio. La ragazza dell'orecchino di perla io l'ho vista in ottici, bar, c'è l'aperitivo della ragazza dell'orecchino di perla, no, giuro, ci sono entrata l'altro giorno, mi è venuta l'ansia. E il menù della ragazza dell'orecchino di perla, ci sono i negozi di abbigliamento con la ragazza dell'orecchino di perla, insomma io ti giuro non ne posso più. E infatti mi chiedo, ma perché vanno a vederla e pagano 13 euro? Cioè ovunque, cioè sui marciapiedi. Anche il portaombrelli, ci dice il tecnico, ognuno ha il suo gadget preferito. No, ogni tanto interviene. No, ma la cosa che appunto a me lascia davvero basito è che poi sembra che ci sia un'attesa quasi feticista per quest'opera, sì, per questa, che poi... Che poi nessuno effettivamente conosce, cioè il fatto è che le mostre servono per conoscere, fin qui siamo d'accordo, le mostre servono e servono come sostituzione a un viaggio che non tutti possono permettersi, è ok, ma il fatto è che non puoi fare una mostra senza una reale preparazione del pubblico, senza pensare che poi quella mostra deve inserirsi in un concetto più ampio di storia dell'arte, che deve coinvolgere la città, intendo Bologna è una città di storia dell'arte, Però a Bologna non si viene per vedere Bologna, ma si viene per vedere la ragazza della Repubblica di Perla. Ma stiamo scherzando? No, anche perché nessuno appunto è quello... entra nella Pinacoteca, nessuno entra nel museo a fianco alla mostra che è il museo medievale. Probabilmente invece di valorizzare l'arte locale si preferisce puntare sull'evento mediatico, che cioè probabilmente fino a prima della mostra nessuno si sarebbe sognato di andarla a vedere la ragazza con le orecchie di perla. Poi in presente capita a Bologna, è l'evento dell'anno, uno non può far mancare la propria presenza, però probabilmente è più una questione di come di... voler depennare dal carnet, esatto, di impegni. Esatto, sono andato. Sono stato. Ok. E quindi insomma, cioè comunque vabbè, io personalmente credo che se, uno può andarla a vedere, nel senso noi non è che mettiamo, non facciamo nessun boicottaggio, non mettiamo nessun veto. Però, no, però secondo me andare a vedere quello e poi dire va bene, allora oggi vado a vedere anche quest'altra cosa qua. Che, cioè, faccio esempi, la Pinacoteca costa 2 euro entrarci, se si è studenti, se si è studenti del DAMS o dell'Accademia è gratuita, è anche lettere credo. Ci sono miliardi di chiese stupende a Bologna dove nessuno entra mai, ma soprattutto dico da studentessa che, cioè, appunto arrivi qua come in un passaggio della tua vita e magari non conosci la città veramente a fondo e ti limiti solo ad alcune zone. Questo è veramente brutto. La Fra comunque è pagata dalla Pinacoteca di Belle Arti. Va bene, e noi purtroppo dobbiamo salutarvi perché il nostro tempo è finito, e però vi voglio lasciare con una bella canzone che è andata a Sanremo e che Rocco Hunt che dedica la sua terra a Napoli, quindi vi lasciamo anche un po' con un sorriso, insomma, un giorno buono. Ciao a tutti. Ciao ciao. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E lui o non può, stamattina m'ha scettato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa con me perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capito, rotto c'è un po' da volere. Bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi, la principessa la miseria, mi sono muta a succugnizzi. Barata piccolina, che non suona, se realizza, ti cancellasse tutte le rughe e tutte cose triste. Hey, hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro, zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello, è con me. Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud, guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro e son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. E lui o non può, stamattina m'ha scettato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capito, rotto c'è un po' da volere. E lui o non può, e New York no boh, e New York no boh, e New York no boh, e New York no boh. Stamattina m'ha scettato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capito, rotto c'è un po' da volere. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. A mio zig si scende a matina, a Gennaro che ha avuto creatura, e pisciaiole, fruttaiole, e tutta gente lo riora.